pagato. E ieri notte, non sai cosa mi è successo, fa un po' con un massa a fare l'uso. Ma? Ha preso fuoco una macchina sotto casa, noi ce l'avevamo riflessa aperta, eravamo addormentati, riflessa aperta e ci aveva giusto la casa di fumo, cazzo. Siccome siamo al santo abbiamo cominciato a tossire, sono scappati fuori. Oh, ma è tutta la finestra dove ce l'hai, lato strada o lato cortile interno? E poi cos'era, doloso o cortocircuito? No, cioè io sono da tutti e due lati la finestra, però no, la macchina che stava camminando c'era anche un bambino in macchina. Ha detto che non rifrenava più la macchina, di colpo poi ha cominciato a fare fumo, è andata a colpi, come ha visto che è andata a colpi ha cominciato la fiamma a uscire da davanti, allora hanno tolto il bambino, per prima cosa tutta la roba che avevano dentro, l'hanno messa sul marciapiede e intanto ho chiamato già i vigili del fuoco, ma ci hanno messo un me perché era già tutta quanta bruciata la macchina quando sono arrivati loro. Minchia, meno male gli è andata bene. Ma dico, istintore in macchina, questi non avevano nulla, io ce l'ho. Non è un vero istintore di quelli col manometro, no? E di quelle bombole da quante 3 litri e schiuma estinguente, praticamente quelle che trovavi da Auchan, che trovavi anche da Lidl. Meglio che niente, meglio che pisciarci sopra il fuoco, già è. E vabbè, cose che non dovrebbero capitare, ma capitano. Natalino, riprendi, io devo disfare la spesa, devo bere, devo mangiare, quindi vi lascio e rimango in ascolto. Vai Natalino. Capa, mi ho piazzato una mensola che sembra una scrivania e devo piazzare il secondo piano, però il secondo piano mi servono le staffe più lunghe. E poi quando c'è il radioamatore lo pieni tutto di radio, così è. Così come sa, bisogna pienarlo di radio. Si dice riempire. Sì, ma sa, sai, lo sai, no? L'ho pienato. Ah, vabbè che siamo billui noi, quindi. E chi lo sa parlare dice così, ma chi sa parlare già non lo dice. Sì, infatti. Oh, c'era una ragazza a scuola che aveva scritto, per dire che una provetta è stata riempita d'acqua, scritto là, senza apostrofo H, no, proprio là, piena d'acqua attaccato, senza apostrofo, là, piena d'acqua, per dire che la provetta era stata riempita d'acqua, questa era di Orsi, Oh, yeah. Vabbè, noi ne avevamo uno che invece che dire per dire cazzo diceva mamma cane, e allora gli avevamo fatto, sai che la lavagna si gira, no? Ci avevamo scritto le malefatte di mamma cane, perché quando parlava era di Orsi lo stesso, diceva bella la bagliavi con lo speaker, bella bagliata che mi hai fatto, poi mi diceva tieni il ferro che devo saldare, come lo teneva se si muoveva per appena, bella mantesa che mi hai fatto, tutto in caso questo tavolo gli si voleva dentro la lavagna. Un giorno ho visto il professore, mi stava facendo fare un'equazione e mi ha detto gira la lavagna, come l'ha girata ha letto le malefatte ma magari tutti ridendo, io ho risato. Meno male non era roba più oscena contro il professore magari come era successo a scuola. Cristo, vabbè, dai Natale, riprendi, bianco per me. Ok, dai, mi fa le buste della spesa, già ti aspettiamo. No, non vi conviene aspettare, tanto io adesso devo mangiare, tante cose devo fare, quindi rimango all'ascolto e buh. Dai, non è entrato nessuno, solo voi ci siete. C'era anche Claudio, poi si è assentato, c'era anche Massimiliano, ha detto che va a caldo, se ne è sceso giù. Ehi, domani, io guarda, sono uscito oggi per non uscire domani, tutto, medicine, coso, domani e dopodomani me ne sto tappato in casa. Vabbè, dai, ritenetevi salutati, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, buone cose. Le malefatte di mamma cane. Bella mantesa che mi hai fatto. Tutta bella abbagliata. Io non mi abbagliare. Questo rumore lo fa sempre. Aspetta, sta lì. Oh, dimmi. Non fa sempre questo cacchio di rumore, boh, è strano, aspetta che controllo a vedere se ci sono canali che possono avermi dato abbattimento. Guarda un po'. Prova a parlare. Guarda, 1, 2, 3, prova. Allora è l'apparecchio che ti fa quel... cosa c'era? Qualcuno hai trovato? No, negativo. Non c'è nessuno che ti che fa abbattimento, boh. Aspetta che cambio radio, E K. Poi. Qua adesso attaccato l'intec. Vediamo se ce lo fa, boh. No, che è la radio, c'è qualche cosa alla radio, c'è qualche componente in più. Può darsi che sia così. Anzi, in questo periodo vanno i bocciucci. E adesso le radio vecchie le lascio tutte a perdere, adesso me le compro tutte nuove. Tutte le ultime che escono, le prendo e boh, basta. Mi sono grotto di cazzo di avere radio che ti danno problemi. E infatti, rompe le scatole quando è così. Il Galaxy era un peccato. Già l'ha aggiustato, va benissimo il Galaxy adesso. Me lo posso immaginare, che avrà messo i pezzi originali, perché quelli cinesi non vanno bene. Ma era tutto da... Vabbè. Mi ha cambiato diversi, dai. Adesso me ne rimangono tre. Rimangono stazione le base partite. Adesso se tolgo lui, se metto... 140, buona. A trovarlo buono, Quello è. È sempre una radio vecchia, capito? Beh, io l'avevo preso da Tecnocomunicazioni, l'aveva tutto quanto revisionato, ma detto che non c'aveva nulla perché lui ritirava la fiera, e vendeva i nubi, capito? Ritirava quelli a seconda mano e vendeva i nubi. L'avevo detto di buscarmelo uno. Era, me l'ha mandato che era perfetto, non c'aveva un graffio, non era né consumato, niente, proprio trattato bene. E la volta sei stato fortunato. Chi se l'ha fatto fare a darlo? L'avevo dato a Marco Combo e poi Marco l'ha venduto a Benito e poi non so che fine ha fatto. Il K. Quello non era mai stato toccato. Anzi, l'unica cosa che ha fatto, ha messo i decimali, Claudio me l'aveva messo, e basta, non l'aveva fatto altro. Il K. Ma che vuoi che ti dica? Ma si sente un odore di bruciato. Nel coso, nel Ruiz. Ahia, una puzza di roba bruciata. Sarà qualche condensatore. Aspetta lei. Oh Natali, dai, ti lascio che devo andare, dai, che bravi, sto uscendo. Non la prenderà mai. Ok, dai, sentiamo, buona serata. Ciao, già che devo mangiare io intanto. Chiudo anch'io, ci sentiamo alle prossime. Beh, allora. Pronto? Pronto, c'è qualcuno? Siete andati tutti via? CQ 10? Attento 10? Sta scendo così in basso. Come sto scendendo basso? Sta scendendo basso. Cos'è staccato il processore? Infatti c'è il processore staccato. Mi è tutto a posto? Eh beh. Non me ne sono accorto. E il microfono com'è il livello? Perché forse come ho pulito l'altro giorno stavo passando lo straccio, probabilmente non me ne sono accorto. Già va bene. Tutto K. Casa non è vuota. Se c'è caldo dentro casa oggi, strano, molto strano. Se c'è caldo qui vuol dire che dentro ci sono, qua fuori ci sono 40 gradi. Ma insomma nella stanza della radio ci sono in questo momento 30,7 gradi, perché arriva il calore dalle finestre di fuori, con la stanza del salone risale ai 50 gradi dentro, cioè il ventilatore è acceso qua dentro. Non voglio mettere nella condizione che fa troppo rumore, perché ho quelle portatili, preferisco mettere un fondo di ventilazione, meglio di niente. Vabbè, meglio niente. Mi sto dicendo che c'è un caldo da morire. Cosa circumbinente? Nulla, al fresco. E ieri siamo andati saliti a portare la spiaggina a Florina, se c'era il raduno nazionale delle 500, cacchio. Tu vedi la gente innamorata di quella macchina, tutti centinaia, centinaia, tutti sbagliano le fotografie, c'erano altre, tutte altre macchine di tutti i generi, Giannini, Abbott, eccetera, eccetera, ma no, tutti hanno danni, tutti volevano la C5, però alla fine tutti quelli delle persone che sono venute, quelli con del club e più altra gente, si sono messi, hanno fatto tutta la fotografia di essere, adesso la faccio vedere, troppo di lusso. Beh, me l'immagino, Roberto. Me l'immagino. Cioè, è una gran bella macchina, ha fatto un gran lavoro, Danilo. Veramente molto, molto bella. Stamattina l'hanno chiamato da Vercelli, gli hanno offerto 50.000 euro. E ha detto, ma neanche a scherzare, gli ha detto Marcello. Anche non ha bisogno Marcello, di no, a farti bene. Già lo so, ma già gli avevo mandato una tipa, però per scherzo, è arrivata a 100.000, ha detto, no, no, a me non mi servono, non ne ho bisogno. Infatti già lo so. Mi piaceva Marcello di no. Ma se lo permette lì su di figurati se vende una macchina del genere, non ne frega niente, ma anche se ne hai 200.000 di euro, no, non ne frega niente. Sì, lo so, non ne frega niente, è per il gusto di aversela fatta. E adesso c'è l'idea di farsi la parte come vuole lui, però con tutte le cose, e se la fa, sono sicuro che se la fa. Ah, ma 500 la parte? E io? Sì, certo ce la fa, ma voglio che ce la fa. E io? Ti volevo dire, non vista niente. Ma intanto accendo la 5 del 5 per manissimo e allora spengo di nuovo, se non fanno caldo, verrà. No, io adesso stavo facendo questi diplomi così, chiamate e basta, per passare l'ora e buh. Ma cioè, ti ripeto, c'è troppo caldo qua dentro. No, no, c'è caldo dappertutto, Robè, non solo dentro casa, no. Tu in casa non mi fa vedere, usciamo per. Ma nessuno c'è qua su 10, solo tu ci sei. Lo facevo io, Massimiliano, Gianni, Natalino, che ne è andato a mangiare. Niente, io sto facendo cosa, ti ho attivato qualche alimentatore perché sotto per l'aria ho collegato su un'alimentazione. Quindi ho messo il Daimon, quello da 40 ampere, mi sono spostato il 430 e il 440, si sentiranno un po' di più le ventole, ma altrimenti è un casino questo caldo. Poi d'inverno magari faccio nuovamente il cambio, se no scalda troppo gli alimentatori. Ma cosa stai facendo tu adesso? Il 430. No, la mamma sta uscendo benissimo. No, no, questo già è grosso, manco rugoso, rubero che gocca, è ghiacciato, è normale, a temperatura ambiente, perché quello non ha, nel vento non ha niente. Figurati quanti ampere sta assorbendo adesso. Sta assorbendo 5 ampere, 6 ampere, la ganda arriva a 60 continui. No, ma perché scaldano gli alimentatori, ma non stai scherzando. E io che c'ero troppo carico e allora li ho divisi un po', siccome ne avevo uno, ne ho uno della Diamond, che è favoloso, da 40 ampere, capito? Allora mi sono messo su quello della Diamond, mi sono messo il 430 e il 140. Sull'altro della Proxo c'ho l'FT920 con l'820H, capito? Per separare un po'. Ho fatto 2-2 mia anziché essere 4, capito? Perché ho dovuto togliere l'alimentatore di linea, il PS50, perché non ci stava. Ho messo il Galaxy ad usarlo, se no il 140 era alimentato col suo alimentatore, però l'ho tolto. E allora ho diviso così, dai. Per l'estate va bene così. Ma il DAC ogni tanto non accendi il DAC? Il DAC l'ho messo dentro la scatola e buttato nel carrello. È messo sopra la matrice nel carrello, non c'ho posto, vabbè. Mi ha divulgato tutto perché mia moglie non riusciva più a pulire di nuovo. Capito? Io non ho più voglia di stare a smontare a fare. Allora ho messo le radio necessarie. 920 HF, linea completa. Per la 27 uso anche il Galaxy Atomeco 430, 440, 320. Bomba. Ne tolto tutto, Roberto, anche 757, colonnine, alimentatori, tolto tutto. Ma ce l'è un design quel carrello o c'è ventilazione? No, beh, ce la porta con... finestre non ce n'è, ma ce la porta con il coso della ventola, capito? E ripagate che ci sia un riciclo d'aria, perché cazzo, se si forma umidità vai della fine di quello che conosci tu. Lo so, Roberto, ma non posso stare a mettere, cioè, c'è un armadio pieno di roba, credimi, guarda, ti faccio la foto. Ci sono due amplificatori grandi, sempre per la 27, serve quello HF che sai che è lì. C'è lo standard base, ci sono 6 o 7 baracchini, poi c'è un lineare grosso di Pinocetto, cazzo, strumenti, strumentini, portatili, microfoni, cornette, cornettine. sera mi vendo tutto, ma è dando due giorni radio. Il 920 e il 430, boh, basta. Anche io qua, poi più spazio c'è e più ne hai bisogno. Io adesso queste ripene sono tutti pieni, ho dovuto togliere la radio perché non ci stavano più, ho tolto il Ruiz, ho tolto un'altra radio, un altro strumento che c'avevo, e vabbè, con la riparazione, un misuratore di campo, di quelli d'accordo, d'antenna, meglio della Unom. Purtroppo manca un componente, lo stiamo aspettando, lo vediamo un pochettino, se no non c'è più spazio di niente qua. E ho fatto un angolo nuovo, non so se tu l'hai visto, però ho fatto un angolo nuovo, mi senti su corredata.com, sono riuscito a mettermi, anzi mi ha aiutato quello Giuseppe di Abbasanta, mi ha messo lui, mi ha aggiustato un po' il coso, il sito, mi ha messo le foto mie, eccetera, eccetera, la QSL. Ma tu non c'è una QSL tua? Certo che ce l'ho, perché non te l'avevo data la QSL mia. Quella lì è quella dove c'è la foto della radio, dove c'è il TL922, sempre quella. Devo cercare se ce l'ho da qualche parte, perché ho messo una specie di cosa di ringraziamento alle persone che mi hanno aiutato, voglio metterci a te e poi voglio metterci anche le altre, e di quelle le persone che mi hanno dato una mano per fare tutto, e mi fa piacere se ci metto anche la tua. Beh, ci mancherebbe altro, beh, non c'è problema, già ce l'ho la quella però l'altra io, è quella foto dove c'è la foto del TL922, mi pare c'è la linea Drake, il 940, quella lì avevo fatto come QSL io, la foto qui dietro c'è tutto il sistema per tutto quello che devi scrivere, capito? Ma comunque ce li ho, almeno te la porto una. Una che si veda davanti il tuo nominativo però, qua, non dietro. No, di quella non ne ho io, non ne ho mai fatto, no. Il mio nominativo è dietro, non ne ho mai fatto di quelle. Anzi sì, le ho fatte però erano il W0 URT. Vabbè dai, già mi arrangio, poi me la vedo una, poi me la fotografo, me la scarico nel computer e la metto nella QRZ. Eia, la faccio avere, non c'è problema. Ciao, vediamo se qualcuno vuole entrare qua sul canale 10, avanti che vuole entrare. Bene, sta andando sul 430. Una bomba, ma pulito sì. Sì, pulito, esattamente 30 watt, se no quello è andato le dai, no. Se senti il vento è pazienza, però devo per forza andare così, se non c'è troppo carico sono l'alimentatore. No, qua sono impercettibile, sento le voci di qualcuno che parla da lontano perché amplifica molto, ma la radio è da paura, spettacolare, bella, chiara e potente, non è distorta, piacevole. Bene. Cappa, gli ho portato la base dell'MC60 quando sono andato a prendere l'antenna, mi sta facendo i tastini, quelli che erano rotti, ti ricordi quello di Fabrizio, i tastini, come si chiama, dell'up down e del lock, me li sta facendo, mi ha detto dammelo così te li metto direttamente dentro. Ah, sì, sempre in 3D. Sì, ce l'hai 3D e ce l'ha anche il mio nipote, però lo sai cos'è, devi dare le mie luci, c'è un programma di scansione e qui l'attacco te la fa immediatamente, relativamente ci vuole almeno un'oretta col macchinario per farlo. Lo so, è così. Va bene. Già bagnato o devi bagnato? Che ore sono? Inizia che presto, 7:30, pensavo fosse più tardi. No, guarda, non cucina niente, mia moglie i fornelli, una bella insalatona, c'è anche la via cena, ma di quelle insalatone mega galattiche, no, vabbè, non si può mangiare, capito? Avevo intenzione di fare una bella pasta di quella fredda, ma non aggiunta. E allora mia moglie sta facendo una bella insalatona. Adesso ci fa bene un bel minestrone caldo, polpette e patate fritte, così ti sciogli. Io ci dici che devo essere, poi un mercoledì c'ho le analisi, quindi devo stare a riposo, capito? Così c'ho tutti i valori regolari e già va bene. Cappa, ecco, tornando al discorso l'altra volta, quel numero di telefono, tu ti ho dato il numero suo o a te ho dato il numero di, cioè come ho fatto di quella persona? No, hai dato a lui il numero mio, però non mi ha chiamato perché chiamate non ne ho. Non a te il numero suo? No, a lui hai dato il numero mio. Ah vabbè, non ti ha chiamato nessuno comunque. No, negativo. Sì, vabbè, ti chiamerà dai. Ok, basta, cosa devo dire di altro? Non viene blu, che già stiamo lavorando, grazie a Dio, siamo già 2 settimane oggi. Sabato ci siamo azzuffati per svuotare quel locale dove dovevamo entrare e oggi idem, certo, non è idea cosa c'è di roba qua, che non è idea. Cosa ci ho buttato e cosa ho regalato? Ah, il locale del dentista. Locale? Del dentista. Quello lì. E ce n'è ancora un altro vagone di roba da portare da un'altra parte, perché c'è anche la roba fra la mia cugina che è negli Stati Uniti, un altro po' di roba, poi ci sono tutte le radio mie, quelle antiche. Cazzo, ho dato alla fine della giornata, c'avevo un'antenna direttiva però con un elemento solo, un braccio unico, che mi ha dato maestrale della sabato maestrale alla fine di Tonampa, e dire, poi c'avevo un'antennina piccolina VHF e marina, ho detto figlia di tutto, della giornata, mi ho ottenuto una gran play, una mini gran play, e tanto non sapevo dove metterle, e qui c'ho la cosa, la mantova turbo, mi sono tenuto, alla fine ha detto cosa ne vuoi? E lascia stare che servire, Roberto, Marco, rimaniamo qui con le antenne e ce ne abbiamo sempre di riserva, no? Non è quello il problema, capito? Perché quando li inizia i lavori? Io da iniziare già cominciato, ne ha tolto l'elettrostatica, ma è tutto l'impianto elettrico che nuovo, canaline, salvavita, quadro di comando, tutte le lampe, è tutta roba nuova, mai usata. L'hai accesa qualche volta, ma è sempre fermo. Ne ho recuperato tutto e ce lo portiamo giù a Ripunta, al campo, di lì c'è uno spogliatoio da sistemare, ci abbiamo già tutto pronto, anzi ve ne è la lampadura. E più ne ho staccato, l'altro giorno ho trovato, ne ho tolto la parabola con la grande, tu non hai idea cosa voleva dire a togliere con la parabola, gran tubesa, solo il motore. E lì ci ho messo il palo, per cui la staffa non l'ho neanche utilizzata, c'era un palo, mi pare che sia da 80 o da 100, no forse da 100, fate il conto, 10 cm di diametro, il palo che reggeva con la parabola lì. E gli ho messo quel palo che mi hai dato tu appoggiato, vabbè, e per cui non c'è stato bisogno di staffe. E la metto di lì con l'antenna particolare, quella con web, che mi ho preso da quel tipo. Eia, gappa. Ma pensiamo non avessi ancora iniziato i lavori, invece se li hai già iniziati vuol dire che quest'anno si cammella forte. No, stamattina avevano iniziato, ma tu vedi, ne già avevano fatto due pareti, ma a una velocità così qua lavorando, c'è un ragazzo, sembra siciliano dall'accento, ma a una velocità lavorando impressionanti queste, non sono gente che ne ha buffuneggia. Ascolta, ieri passateci. Ehi, stasera è passato. Che miseria. Non sono per dire la carbonata, l'ho più visto. Qualche mattina ci vengo a salutarlo. Poi quella persona che ti ha dato la casa a te, già mi è capito quello che c'ha altre cose, dai, diciamo che adelante. Tu lo vedi spesso e lo senti spesso? Guarda, abbiamo preso il caffè quando è da poco. Settimana scorsa, perché ti serve qualcosa? No, siccome gli ho fatto una promessa, siccome ho detto regalami un pallone, io le promesse le mantengo, se passa in zona con te, dille passa la roba che dobbiamo andare a prenderci una cosa, e dirò quello che gli avevo promesso. Sì, glielo dico, una mattina che sono con Luca, io dobbiamo andare a prendere una commissione, per un po' su, sì, ci vediamo spesso, anche perché ha fatto dei lavori ultimamente, poi hai visto qui su, tutto questo garraggio che ha messo nella strada, perché il cantiere è ancora il suo, no? Il cantiere. E l'altro giorno sono andato a Tangio, ma questo cambiare il bell'apporti questa palla per spiegare. Ma ho toccato, già te lo faccio ancora a farlo. E quindi sono andato per quello, capito? Io le promesse le mantengo, già passato un annetto da quando ci siamo visti l'ultima volta, però ho detto non ti preoccupare, adesso mi siccome abbiamo svuotato tutto, ce n'erano una marea di questi palloni, ho detto dammene uno, dai, l'ho preso, nuovo me, anche se non è pallone di alta qualità, però è una funzione per farsi due tiri con gli amici. Sì, ma poi in gamba non c'è problema. Tutti i lavori che c'erano da fare quando ho preso la casa, me li ha ultimati, me li ha fatti, adesso mi ha detto guarda che in cantiere ci devono essere le finestre, della misura dell'apertura che c'è nel cavello dietro, nel corridoio del cavello, prendi il telefono di Villanube, vieni tu, mettere il camioncino, me lo porti su, poi a piazzare, cerchiamo, non le faccio piazzare. Portuccini ne abbiamo tolto un altro, adesso dovrà c'è mia sorella, prima quello di destra, adesso quello di sinistra, già avevamo una porta d'ingresso se serve a qualcuno, ma se ne erano fermo. Bisogna avere misure, più che porte, a me porte c'è tutto nuovo, io l'ho rivista, cioè non è quella porta che abbiamo messo in quella stanza, l'ultima area del Carrerio, ci abbiamo messo quella lì, ma è nuova, a me servono finestre, a me servono altre tre, per il corridoio del cavello, perché sono chiusi a pannelli, capito? Non, l'aria già passa lo stesso perché c'è un sacco di corrente, però posso mettere, adesso vediamo, se farle fare l'aiaio, sarei in alluminio di quello leggero. Ma professore, perché l'abbiamo smontato, l'avevano tutte togliere quelle filette, no? Tu sei entrato dove il salone, diciamo, dove stavano facendo questa roba, ti ho fatto entrare. Dove c'è ieri? Sei mai entrato? Una volta siamo entrati. Però le finestre queste sono grandi, c'erano almeno da un metro e venti, un metro e trenta per cento. Sì, queste sono enormi, cazzo, forse sono pure di più, perché tanto le stanno tutte smontando quelle, ne hanno tolto una, sarà 4 metri, 2 metri per un metro e mezzo, però sono due altre grandi, hanno sfasciato uno, se lo tolgo, ma me ne ha fatto da tanto, che non devono fare, poi ci sono le altre che sono un po' più piccole, se ti svegli, vieni e te le prendi, tanto loro le buttano quelle. Sì, poi con gli altri non ho problemi io, ho con te, se è roba tua. E bisogna che venga a prendere misura, ne prendo la misura di una, vabbè, poi te lo dico. Se no lo dico a Iaio e me le faccio fare in alluminio leggero, capito? Scorrevole, magari una cassola scorrevole, ma non le posso aprire perché adesso sono chiuse definitivamente, però le voglio mettere con le tre finestre, voglio ultimare lì dietro, ma col caldo che sta facendo non faccio un cazzo adesso, ma manco se mi baghi. Ciao, poi c'ho anche due porte, ne hanno smontato due porte a vetri, quella del bagno che c'era il bagno di lì, quelle adesso sono buone, non so se quelle portarle giù alle punte, adesso vediamo, dai. Non c'è il fischia, la mano, non c'è problema. Non problem. No, porte no, io sono tutto nuovo, vabbè, insomma, dietro il Carverio, nell'altra parte lì c'erano cosette da ultimare, adesso vediamo, insomma. Ho speso un sacco di soldi, ne voglio mettere bloccati, ma adesso me la fottiamo bene, io continuo a fare, poi c'è via e luci. Ecco il Carverio, piano fate una bella stanza di lì, veramente è carina, lì ti metti qualcosa, cosa state usando, la lavanderia, cos'è poi? Sì, c'è la lavanderia, lì c'è la lavanderia e poi sono i mobili che mi sono avanzati, un po' di attrezzatura mia, tutti i tubi, quella roba lì, hai visto? Poi è molto fresca quella stanza, poi c'è il frigo, la caldaia. Sai che cosa ci abbiamo mutato di mobili qua? Cameretta intera, nuova, fiammante, tra i miei posti, nuova. E poi la fiaggia, domani cosa ce ne faremo? Con due letti e cosa? Un peccato, vabbè, però cosa ne fai? Ci ho buttato tanta di quella roba. C'erano le collezioni complete di Radio Rivista dal 1987 al 2020. Centinaia di libri, cassette di quella, lui l'ha detto, ci avevamo fatto tutto, me l'aveva dato un amico carissimo, il fratello era di amatore, non si fanno i nomi, alla fine ha detto no, dove me le metto, non ce la faccio più, centinaia di riviste. Vabbè, quando sono andato via da Carmanti, io c'avevo un armadio praticamente fatto a pensi e tutto, dentro ce n'erano 200 di radioriviste. La giubilata sta giocando tutto nel cassetto, la carta, ci ho buttato tutto, non ho portato niente qua, perché non per stare con questa mondezza a fare cosa. Già lo so, però si dispiace, se uno c'ha spazio ti vai da una libreria dedicata solo a queste cose, però ci vuole una stanza dedicata, io qua ho tanta ancora di quella roba da sistemare, da mettere, non mi bastano più lo spazio, la stazione della radio mia è abbastanza grande, però ci sono delle cose che non posso metterla, infatti non so se togliere la scrivania e mettere una libreria o qualcosa, perché sennò alla fine non ce la faccio più a tenere la roba, vabbè, purtroppo più ne hai di roba più spazio ci vuole, non la finisci più. Lasciamo un secondino di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare, se non riprendi qua. Signori, buonasera. E chi è? Avanti. Ecco. Dobbiamo farci le giuste, che sono due azzurra. Chi sei, Fra? Cappa! Fra, mi hai sentito dopo tanto, c'è anche Claudio, aspetta di mangiare Claudio. Io l'ho già sentito io, Franco, ciao Fra, buonasera, infatti, il mio fratello so chi era giura. Ha detto bene, avanti Fra. Ci sono quella ragione, sono con Bifossi, no? Ovvio. Va bene, ciao, comunque buonasera, Claudio, buonasera anche a te, Roberto. Me l'ha ascoltato dopo tanto anche a te. Tu ormai sei nell'altra frequenza, avanti a te Roberto. Vabbè, lo sai, molte volte io accendo, non intendo a nessuno, qualche volta c'è uno di passaggio che sta, ciao, sto andando via, non coincidono i tempi, quando invece capita, ben volentieri, già le persone che mi piacciono da cipparle, tu sei una di quelle, Claudio, noi parliamo, è sempre un piacere parlare con voi, soprattutto poi se abbiamo argomenti interessanti, per me è sempre un piacere, non dimentico le amicizie e non dimentico soprattutto la 26. Come diceva uno, mio padre era il più forte della Sardegna, uno dei più forti di Sassari. Le ho fatte Claudio. Sì, capo, no, sono andato. un attimino a bere, stavo mangiando i sette. A me ne è caso il sopra. Sì, mira, che sono caso non finì più. Infatti dove sono io, su già l'avevi visto qua. C'è troppo caldo, poco fa c'era un bel po' parlando con l'ottalino, però poi ho mollato perché se non si poteva stare qua. Ma invece mi sembrava, mi bevo un caffè, mi bevo qualche cosa fresca, però dai no che me ne devo andare. Infatti adesso sono salito a spegnere tutto e ho sentito a voi. Allora, almeno per salutarli entro. Hai fatto bene, fra. No, qua dentro casa da me si sta bene, la verità, è molto fresca questa casa, perché sotto abbiamo terra, ma fuori c'è da morire, vai Robè. No, qua dentro c'è in questo momento, vi ripeto, 30,7 gradi, perché c'è una vetrata di fronte al salone che fa effetto lente, per cui il calore che genera è messa tutto nell'altra stanza. C'è un ventilatore qua di fronte a me, proprio attaccato a un metro, e mi sto buttando solo in pantaloncini a petto nudo per cercare di attenuare il calore, se non murino di Trento. Nella stanza dove dormo faccio l'aria condizionata già accesa, pronta a 24 ore su 24, almeno non dico di giorno, quando non ci sono, ma la notte è sempre attaccata. Questo caldo è micidiale, anche se ho sentito che venerdì dovrebbe proprio piovere, speriamo bene, così almeno raffredda un po' la terra, visto che è troppo arida e sta ad un problema. Speriamo che non ne arrivino le cavallette dalla piana di Ottana di Molotana, che è una cosa spaventosa. Ho visto i video, la strada, cioè tu passi sulla macchina, sembra che stai passando sopra un coso di mocchette, tutto bene le cavallette. La cosa che mi ha impressionato, c'era un vastone di raccolta acqua con tutte le cavallette a muglio, bevendo, completamente pieno di cavallette. Io pensavo che la temessero l'acqua, di umani erano tutte in acqua. Ma la temono l'acqua, le cavallette? Se arrivi in un altro che fa la piscina, e la metterà più piscina, sì, vai fra. Ehi, capo. Guarda, Robè, dove sono io, c'ho un soffitto basso, che mi devo anche inchinare dentro. quando mi siedo solo sto bene, però in piedi ci tocco anche. L'avevo fatto provvisorio quando ho costruito per la scala chiocciola. E poi andando avanti, sempre lo faccio dopo, lo faccio più avanti, ancora è così. Adesso mi sto decidendo di farlo, come farlo tutto, di sollevarlo e allungare la camera. Vediamo un po' se ce la faccio quest'anno. Se no continuo così, è per quello che c'è caldo qua. Guarda, qua adesso dentro sono io, a 32 gradi. Il ventilatore l'ho spento perché mi manda solo aria calda. Avanti a te, Robè. Ma anche se magari arriva a casa, a me non muove un pochettino, se no si muore. Io ho quell'altro, ho messo una stanza di mia figlia, io ho quelli portatili, ne ho un paio, però fate troppo rumore, quelli tipo pinguino che metti il tubo fuori, fa troppo macello, disturberebbe le radio, allora alla fine ha detto dai, ma arrangio col ventilatore. Poi ho quelli che ci metti l'acqua, quei rinfrescatori, quelli grandi che ci stanno 20 litri di acqua, e quello un po' va meglio, dai. Ma caso per caso è sempre quello il discorso. Di nuovo a te, Claudio. No, io ce l'ho a carbonato. Se lasciate Mansarda, il pinguino De Longhi, il proprietario De Longhi, che avevo pagato 1200 o 1400 euro, si è rotto l'interruttore e non l'ho più usato, l'ho messo solo e lasciato stare. Però quasi quasi, in questi giorni, vado, me lo prendo e lo porto, perché non ne fa di niente quello, è abbastanza silenzioso, anche quello c'ha il bidone da 20 litri dentro, ma rinfresca, solo che c'è il tubo da mettere nel vetro della finestra. Carbonati avevo fatto fare dal vetraio il foro, tenevo il tubo attaccato, è stato inverno, anzi non inverno, lo toglievo e mettevo il tappo, mentre l'estate rimaneva sempre attaccato, capito? Quando c'era molto caldo lo accendevo, se no no, qui non ce n'è necessità, la verità, però cazzo, se continua questo caldo, minchia. Già lo so, il caldo pure, io il freddo mi arrangio, lo sopporto, ma il caldo non ci riesco, è più forte di me, è una cosa da vedere, quando vai al mare d'estate, o sono dentro l'acqua, o sono un posto all'ombra, non ci riesco a stare al sole. Nel camper molte volte che devi stare in un posto coso, devo aprire tutto, mi metto il ventilatore dentro, se non muri, io non è più forte di me, non riesco neanche a dormire la notte, poi se non ho l'aria condizionata accesa, guai, se no, d'inverno invece, se c'è freddo, a casa mia c'è un bel di freddo d'inverno, Miami, l'estate è il contrario, c'è un po' di caldo perché c'è un orientamento sbagliato, diciamo, purtroppo è così, non ci puoi fare niente, però cacchio, mi prendo tutto il caldo e tutto il freddo. Ok, arrivo a te Franco. Capo, io riprendo e poi vi saluto perché è arrivata mia moglie e ci sentiamo. Niente, sono quasi le 8, mi ha fatto piacere di sentirvi e ci ascoltiamo le prossimine. Buon proseguo, buon tutto, vai. Riprendi a te Claudio e fai girare. Ciao Roberto e ciao Claudio, alle prossime. Ciao, ciao Fra, piacere averti riascoltato, saluto in cordialità, dai. E ancora 10 minuti con Roberto, poi anch'io mi ritiro per liberare la cena. Vai Roberto. E anche a me fa ben sentito, dai, dopo un po', sempre un piacere ascoltare. Ok, buon tutto, buona cena anche a te, anche io qualche minuto rimango con Claudio, poi vado a mangiarmi qualcosa, soprattutto mi bevo qualcosa, che va giù un po' di goma di bella roba fresca. Di nuovo a te Claudio. Io sì, c'ho un po' di roba al cavello, di bibite e cose, però più beve più birra non se ne va veda. Però non la sto bevendo perché fa ancora più caldo. È freddo, quello mettinato, quello verde, quello lì. È qualche... è un po' di acqua. Cosa che proprio no, mia figlia è fissata a Gourdet, sempre bevendo questo cavolo di tè, a me non piace. Cioè non è che non mi piace il tè, però berlo così per dissetarti, no, non mi piace. A me quando c'ho sete bevo solo acqua, bella fresca, non ghiacciata, che fa arrivare, ed è la cosa migliore. Poi se c'è qualcos'altro, un po' di frutta, qualcosa di che non sia alcolico, me lo bevo. Sì, no, bello come piace, bello fresco, di coca, quei succhi così mi piacciono a me. Alla grande, però birra no, fa troppo caldo, ti fa sciogliere un bel. Sì, già lo so, ma poi le bevi un po' di birra, poi vieni tu, non è di 70, è tanto per toglierti il gusto, fresco, e boh, però se c'ho sette è solo l'acqua, c'è gente che si disetta con la birra, se ne bevono a litri come l'acqua, ma no, per me non va bene, bevo finché mi piace il gusto, poi basta, no, non mi piace di più, come tutte le cose. L'acqua è l'acqua naturale, neanche gasata. No, non c'è gasata, è naturale, a mia moglie piace al mattino, capito? Però no, gasata no, è peggio, naturale. Ciao, sono venuto l'altro giorno, ti ho detto per sfugare. Sei venuto? Ti ricordi ti avevo accennato per il fatto che c'era incasato la Piero nella cartoleria? Ah, ci siamo venuti, no? Avevo fatto il comune. L'ho chiamati e poi sono venuti quelli di Abano alla fine e hanno controllato, ma qua sembra tutto libero, ho detto guarda che non è così, non è così, allora sono giunti con l'autospurgo, hanno infilato dentro e hanno liberato, ma diciamo non è uscito subito perché poi alla fine probabilmente c'era qualche cosettina e hanno liberato tutto, è andato bene, poi abbiamo messo il liquido, anzi l'hanno messo loro, il liquido del contrasto, la polverina, quella verde, alla fine era tutto libero. Sì, qualche traccia o qualcosa, capito? Quando entra la sonda, da pressione d'acqua, la gente dice, e visto come è fatta quella sonda, c'è un cappelletto davanti a in fuori, lì quando manca in pressione, la gente dice la roba. Già lo so, una spinge e l'altra tira, cioè c'è un doppio coso, ma che bella quando ha preso la curva nel palazzo, hai visto che c'è la cartoleria, ne sono arrivati a 40 metri in avanti, diritti hanno superato la cartoleria e sono andati sino in cima per 40 metri, dopodiché sono entrata l'altra, quella più sottile, quella più grossa no, quella più sottile è stata quell'altra più cosa, ha girato nel, dove c'è la cartoleria di fianco per salire nella rampa del palazzo, si vibrava tutto il palazzo, dice ma che sta succedendo qua? Ed era il muro che vibrava dalla potenza di questa cosa. È una potenza allucinante, poi quella cammina, capito? Quando tu la metti in movimento e le dai la pressione dell'acqua, quella c'ha una palla davanti, cammina da sola, cammina va avanti sino a spingere. Non lo so, non avevo mai visto il funzionamento, certo di potenza, mi sono spaventato come entra, veloce, ma è un sorpreso. Sto dicendo, una volta a me mi è capitato a Santa Maria Colina, si è venuto Leoni, ho detto guarda che ci resta roba forte, roba grossa, ed era una palla di detersivo che diventa pietra, capito? Ha messo la sonda, al primo colpo non è riuscito a spaccarla. gli ho detto, dai pressione, c'è parte la condotta, dai pressione a tutti, c'è parte la condotta, me la dovete mettere la fase nuova, mi si sta allagando la strada. Come ha dato la pressione, l'ha spaccata in due, sono saliti pezzi in aria. Figurati, è una bomba, già lo so, non me l'immaginavo una cosa del genere, impressionante. Sì, sì, ma l'ho vista, la volano in una maniera qui, vabbè, quella che c'è a Manoa, l'autospurgo è piccola, non è molto grande, comunque c'è un impianto abbastanza consistente, ma se vedi il coso, il 190 di Leone, quello grande, hanno entrato in stagione da Matteo Barreno. Questa qua era una ditta che poi ha lasciato il numero di telefono, non era Manoa, era una ditta esterna, però non era Leoni, era un altro, non era quella grossa grossa del 190, quello più piccolo sarà stato buono, lo so, leggermente più piccolo del 190, ma aveva un bel motore. Diana era, Diana? Diana era. Eh sì, perché la moglie da Manoa li fa Leoni e Diana. Leoni e Diana, Turettana fa solo le manutenzioni stradali, non ne ha di autoscurto. Leone e Diana, anche quelli di Diana sono grandi da tutti gli autoscuri, ne ha una piccola, ne ha grande, ne ha media, lavora con Abbanoa, sì, se ce lo io salutavo, sono tanto nuovo, vedo l'operatore di Diana. Sono una merendiamo, ti posso dire, quando sono venuti la mattina, quello senza far nome, non si dice, era avendo un po' di stravagante, ma lei lo capisce l'italiano, ho fatto sì, io lo capisco l'italiano, però devi capirlo anche tu l'italiano quando ti dicono le cose, era avendo un po' rigoroso, ha fatto, io se ci metto le mani in questo coso, io sto facendo un abuso, un reato, perché la condotta non è la mia, la condotta è di Abbanoa o del comune, in questo caso, io non posso toccare niente, siete voi che dovete intervenire, poi ha telefonato a una persona che conta, che ci conosciamo, era tirato appena le orecchie, subito un agnellino, lo vuoi vedere come ha cambiato atteggiamento, poi è venuto la sera, un agnellino, ha cambiato atteggiamento, c'erano questi di coso, che poi ci conoscevamo pure, uno di questi stava parlando, ha detto ma tu ci conosci? Sì, sì, alla fine ci siamo visti, ha detto ma perché, e ci conoscevamo perché a Pratamona lui scendeva qualche spuntino e cose del genere, allora di lì ci sono andati, dice lui se ci serve qualcosa chiama a me in gamba, argomento quello di coso, della ditta ex tua la vende lo stravagante. Perché fa il stravagante, siamo vediare che era quello con la panda bianca, cioè, con pochi capelli. Già l'hai visto, mi pare per il Buruduga, no vabbè forse tu non l'hai visto, quello è stato quello. Sempre Edule, sempre lui, Io una volta ho avuto anche un grosso diverbio con lui, proprio a Valleoria, perché è uno che insiste, capito? Però insistendo e sentendo me l'hai detto una volta a Giro. Quando la finisci me lo dici, quando la finisci me lo dici, aspetta, fa una cosa, siete macchina via da io. Ma vai, siete macchina e vai, se no sto chiamando il dirigente, vai, tu li tira i coglioni, vai a te che la c'è. Ah, cioè questo è il mio lavoro, è il mio reparto, la mia zona, comando io questo, non ve ne andate in a me, vai, aiuto, passa via. Già lo so, ma poi già ho abbassato la cresta, pensavo a vedere con un matto, gli ho fatto, forse non ci siamo capiti, ha già fatto subito abbassare, poi lui sta facendo le fotografie, riprendendo sotto col cellulare, gli ho spiegato un po' di cose, ha detto se io qua, questo è un abuso, se io mi metto a toccare qua, parlando della linea, ha detto la linea nostra è all'interno, noi non c'entriamo niente, lo scarico il boh, devi intervenire tu, io non posso toccare neanche uno spillo qua dentro, perché questo è un reato, allora ci ha mandato a una persona che non si può fare no, un dirigente che mi conosce, perché io prima ho chiamato il dirigente, che ci conosciamo bene con lui e col fratello, dopodiché ha tirato la Lecci, è cambiato completamente atteggiamento. Per lui abbassa la cresta solo quando le tirano le orecchie, capito? Ma io non c'è stato bisogno di tirare le orecchie, te la ci mandate il buco, perché quando vieni qua la prossima volta chiedi il permesso. Non era per dato consiglio, a me consiglio, ma ne servono, che sia un ragazzino, allora non sarebbe 30 anni per consigliare, poi l'autonomia, la responsabilità lì era la mia, però è sempre in mezzo ai beni, di sorso è me, c'è 5 a me. Sì, non lo so di dire, appena vendi lo spacconcello, vendi lo dopo, allora gli ho raccontato un paio di episodi, così ha fatto brutti figuri, che allora, pensavo stesse parlando con uno ignorante, fa così, no, chiaro, comprendo, discarichi e di cose del genere, poi ha chiamato la Ghizzo, che era in gamba però, la sera, quando è venuto quello lì, l'ho fatto entrare dentro il coso di Piero, una cartoleria, e stava chiedendo informazioni di quello e quell'altro, lui, e gli ho detto, ma cosa c'è di te? Non è che stai dicendo fesseria, chi no che aveva un sifone, perché l'acqua come mai rimaneva galla. C'è un sifone di lì, per forza che l'acqua. No, lui era convinto che il sifone dovesse svuotare completamente. No, non svuota mai il sifone, non dicono stronzate. Non dicono stronzate. Ma non c'è il sifone così in mezzo, c'è sempre l'acqua, per forza. Quindi, no, quello che è venuto da te è quello di Roberto. Quello in gamba, quello. È che è morto Marco Sequenza. Pensate che Marco Sequenza, che è responsabile dei fontanieri, non avviene fatto di guappi. Adesso sono tutti al Pascolo Bravo con i fontanieri, capito? Perché sono fontanieri, non sono come lui, io facevo conduzione, ero conduttore di impianto di manutenzione, conduttore manutentore degli impianti di depurazione, quindi loro sono fontanieri, loro intervengono quando ci sono queste cose così, per, se c'è necessità chiudono anche l'acqua, chiudono la condotta del ricircolo, appunto delle tubature stradali, perché sono tutti tornati indietro. Ma per il resto non se ne va. No, no, lo conosco, Marco Sequenza, poverino, è morto, lo conoscevo molto bene perché era molto amico di Giovannino Russo e l'aveva portato lì quando c'è stato un problema, era una persona veramente preparata soprattutto nel suo lavoro. Io ti sono tutti convinti a chi ha arrivato lo corso della Mondessa. Ma il corso Mondessa, sono tutti entrati a fare concorso. A noi ci hanno fatto fare il concorso dalla Sinos alla Banova, ed siamo entrati tutti qua in corsi, diciamo, per, ma c'erano decine deficienti di dentro, vabbè. Io gli ultimi 2 anni non rispondevo mai di me, capito? Qualsiasi cosa dicevano, qua c'era la mamma e siete, vai, avvia, ti va. Però tu mica me lo hai detto, di la dirigente a telefonare a me, che tu non me rappresenti un cazzo, vai, avvia. E già lo so, per farsi belli, no? Per farsi vedere con il dirigente e poi fare dei brutti picchi. E ma infatti, lo chiamavo subito. Ho sempre avuto un buonissimo rapporto con il mio dirigente responsabile del distretto. Ci ho detto, ma mi ha chiamato, no Marti, no, ma mi ha trovato, mi ha detto che c'era andare a fare questo intervento, no, no. Non mi risulta, se le faccio sapere, capito? C'era un rapporto diretto, quindi io non prendevo ordine a nessuno, non c'avevo la mia tabella di marcia, il mio ordine di servizio tutti i santi giorni e facevo quello, no? E che stavo lì a cincischiavo chi si perde ad oggi. Già lo so. Una domanda, cambiando discorso, parlando sempre di acqua. Da dove siamo alimentati noi, Sassari? Dal Coghinas o dal Bidighins? No, Coghinas B, praticamente è il bypass che c'era dal Bunari, capito? Quando è stato chiuso il Bunari l'hanno chiamato Coghinas B. Solo Coghinas noi, solo Coghinas. In caso di necessità ci dà una mano il Bidighinzu, no? Visto, e al Bidighinzu l'aiuta il Temo. Ma come superficie cubatura, chi è più grosso, il Coghinas o il Bidighinzu? Il Coghinas, è 3 volti. No, pensavo al contrario io. Perché ho visto, ieri sono andato alle terme giù a Coso, ieri sera c'era una manifestazione, ma è un bel secco al Coghinas, cioè poi c'è la foce che scarica a Coso, Santa Maria Coghinas e poi arriva a mare, ma tu vedi quanto è sceso il livello quest'anno. Ma quello è l'uscita proprio, l'ultimo pezzo, ma se tu vai a Tura, nella zona di Tura, il Coghinas è ancora pieno. E poi c'è il bacino di recupero, è pieno, ne abbiamo problemi in siccità noi, assolutamente. Ma anche il Bidighinzu, poi c'è il Temo anche che aiuta, capito? Non abbiamo problemi d'acqua, e ce n'è ancora, pare siamo ancora a 10 milioni di metri cubi o 9 milioni di metri cubi, non ricordo l'ultima cosa che hanno fatto, l'ultimo controllo che hanno fatto, le paratoie sono ancora molto molto alte, non le hanno abbassate ancora. Quindi non dovremmo avere problemi d'acqua, perché ho visto su il continente il Po 7 metri di secca, cioè, mica 7 metri sono ben. E allora le prime acque che fa, il Po si solleva perché non c'è margini, capito? È fatto la cazzo di cane, si solleva, poi lì non hanno dighe, non hanno niente, si solleva, fa lì, poi allaga tutto. E' quello che succede, poi succedono le alluvioni tra riva e fiume. Il Cuba non ci sono andato questo inverno, era spaventosamente pieno, sono andato in inverno, dai, non era inverno pieno, però era pieno pieno di acqua, come non mai. E adesso chissà come entra il Cuba. Ma il Cuba è sempre come era il Bunari, è mai passato, nel caso si riempie per calamità naturali, per molta acqua, è mai passato col Bidighinzu, quindi l'acqua del Cuba non va persa, non va mai passata. completamente secco, non viene più di Eva. Una l'hai dismesso, i vasconi del Bunda sono secchi, non c'è più niente, è stata tolta anche la trazione di pompaggio, non c'è più niente. Però è stata fatta la cazzata più grande, perché il Bunda li poteva servire sassari per caduta, ed era sempre una risorsa utile in mancanza di d'acqua, invece adesso no. Infatti io mi ricordo che il Bunari andava, a parte era bellissimo il posto, si andava da ragazzi, era una cosa bellissima, poi dice che si intasavano le pompe, è vero, perché c'era troppa sabbia. Ma è un bel fango, infatti l'ufficio del Tavolo ha adottato un sistema di auto, si pulivano automaticamente, capito? Quando si intasavano c'era un sistema, come te lo posso spiegare, praticamente la pompa al momento in cui andava in blocco si attivava un sistema che la faceva girare al contrario per qualche secondo e puliva e poi ripartiva in automatico. Forse ho sentito qualcuno avanti su 10. No, la propagazione, Robè. Vabbè ragazzi. Franco Binario, non è parteggiato il treno. Via, ci siamo perdere, dai. Come va ragazzi? Un abbraccio, un po' che non ci sentiamo. Ciao Fra, un abbraccio anche a te, tutto bene. Besaugato, ma tutto bene, vai Roberto. Ciao Franco, anche a te, ben risenti, poco fa c'era l'altro Franco, e continua il risorso, comunque, sempre franchi siete, belle persone, simpatiche e piacevoli. Di nuovo a te Franco. Capo, posso dire anche io altrettanto di voi, quindi, fa sempre piacere sentirvi. Ho acceso giusto per scaldare un po' i motori, dopo una giornata calda anche oggi, di lavoro, dai. A te Roberto. E a chi lo dice, mi stavo parlando con Claudio, qua dentro ci sono, dentro la stanza radio, come ho detto prima, ci sono dei vetri che fanno da specchio, un salone grande, e la stanza radio è separata, però il calore entra dall'altra stanza. C'ho 30,7 gradi, e c'ho il ventilatore, sennò qua si muore di fare la sauna. Se vuoi dimagrire, come quelli che vanno a pagare, dico, anziché pagare, vieni a casa mia e ti faccio dimagrire, tipo la cosa, come si chiama? La sauna norvegese, come la chiamano? Boh, non me la metto, finlandese. Di nuovo a te, Franco. Sì, no, anche qua c'è caro, adesso ho acceso la pompa, dentro casa si sta già bene, però sta rinfrescando anche fuori, già scesa sotto i 30, quindi forse se apri la finestra c'è più fresco. Ma domani è peggio, domani è dopo è peggio, è previsto, almeno se le previsioni a lungo termine non sono molto precise, però venerdì è previsto qualcosa di acqua, speriamo che non faccia danno e soprattutto che serva a rinfrescare, dai. Ciao, guarda il mic. Di una vozia. Buonasera, mi. Mi ha dato la carica, sei giunto, sei fuggito, sei capitato nel momento del intasamento, mi sono girato ed eri fuggito. Perché mi si è rotto il motorino che manda l'acqua al tergicristallo, mi. Io ce l'ho il motorino, l'ho comprato, però dice che bisogna togliere il passaruota, è un casino quello per metterlo. Adesso ho detto il passaruota, ma sei sicuro che sia il motorino e non sia qualche tubo intasato? No, non parte proprio, l'elettrauto mi ha detto che non è nessun fusibile né nulla, è il motorino che è partito. Vabbè, è andato a fare un appuntamento, si smonta il coso e poi ne parliamo. C'è anche Franco, c'è Claudio, ti lancio a Claudio e poi passerà a Franco. Ciao Natalino. Dimmi già che hai 2 minuti, Roberto, a attaccare il passaruota perché esce e poi si mette. Non è difficile, Natalino, ti ho già spiegato, però c'ha degli affari perché se rompi poi i perni lo vale tutta la vita, è un casino. Vai avanti a Roberto e te lo fai fare. Cappa. Sì ragazzi, però io vi lascio perché mi hanno già chiamato dall'altra parte, devo preparare qualcosa di cena, quindi nel frattempo vi saluto. Ciao Fra, un abbraccio grande, saluto a casa, ciao Natale, ciao Robby. Dai, se coincide più tardi al fresco, se no a domani. Vai Franco. Capo, intanto saluto Natalino, ben entrato, dopo ci facciamo anche la crata. Sì, ciao Claudio, anche a te ricambio il tutto, abbraccio a te in famiglia, ok. Ma che c'è, organizziamo appena rinfresca, appena, dai. Un abbraccio a tutti. Avanti per i saluti, adesso mi viene il nome. Roberto. Anche io vado a mangiare qualcosa, soprattutto a bermi qualcosa, sto cumulando le risette. Ma se ci siete ci sentiamo più tardi, tra una mezz'oretta penso di liberarmi un pochettino. Dai, vi saluto, grazie di nuovo della compagnia, pur breve diciamo, Natalino e tu Franco, però è sempre un piacere. Dai, ci sentiamo se coincide più tardi. Ciao a tutti, ciao Natalino, Claudio e Franco, e poi gli eventuali anche ascoltoni, come si dice da queste parti. Ciao Claudio, ciao Roberto, alle prossime, avanti tra. Sì, capo, no, anch'io fra un po' scappo, sono entrato anch'io per i saluti perché, ripeto, fa sempre piacere salutare gli amici. Ciao Roberto, alle prossime, un abbraccio. Natali, sì, una cavolata, dai. Purtroppo molte macchine montano la vaschetta nel sotto passaruota, ma sono un paio di bulloncini, dai. Già, chi lo sa, fa in fretta. Avanti Natali. E chi lo sa, sì, ma io non l'ho mai smontato il passaruota, capito? Il motorino già me l'ho preso al Ferrovecchio, l'ho provato pure parte, però quello che ho in macchina è rotto, mi ha detto l'elettrauto. È il motorino della vaschetta. Ma l'hai preso uguale, è proprio di quella macchina? E allora? No, no, poi se l'avessi preso uno così, no, perché ogni macchina c'ha il suo attacco elettrico e il suo diametro magari di innesto, perché qui sono a innesto, giusto? C'è una guarnizione, va sfilato e reinserito nella guarnizione. Sicuramente è così. Quello che ti ha dato c'è una specie di beccuccio, dai, di un po' lunghetto, sarà 4-5 centimetri, quindi togli uno e infili l'altro e poi fai il collegamento elettrico. E le pompe, ci sono anche due attacchi per le pompe. Due? Perché due? Dove vanno? Uno dietro e uno davanti. Ah, cioè, e quindi il motorino è doppio, com'è? Spiegami. C'è l'attacco per due pompe, più quello lungo da mettere nella vaschetta. È strano che ne abbia due, boh. Perché dietro sicuramente è separato il motorino. Ah no, tu ne hai due, come cavolo fa a dividere? Boh, non lo so. Adesso mi ha messo un dubbio. Io per esempio ne ho due motorini, uno dietro e uno per davanti, però il motorino è doppio. Tu ne hai solo uno invece, con due uscite. Boh. Infatti non funziona manco quello di dietro. Ed è un unico motorino con due uscite. Non lo so, non l'ho mai visti. Doppi sì li ho visti, due motorini. Così no, ma già lo saprà Roberto, dai. Vabbè, come stai andando? Gli ex che ne stai facendo? No, negativo, Fra. Ho dovuto dare tutto, c'ho solo il 3009 qua. Perché mi hanno preso di mira, non c'è nulla da fare da queste parti. Comunque, insomma, le due fiscate sono sempre in agguato, dai. Vabbè, se vale lo vale, utilizziamo questa frequenza qua. Non possiamo fare altro per il momento. E con gli studi come stai andando? Si studia. Una volta con quella roba lì non ci saranno più problemi, si attaccheranno a pupa, là. Penso proprio di sì. Quindi dacci dentro, studia come se non ci fosse un domani. E così sto facendo. Già ne hai memoria, avete ricordato tutto? Sì, poi per me è un ripasso perché sapevo tutto. E quindi dai, spero che sia, non dico un gioco, ma quasi. Poi dicono che online va meglio. Speriamo che mi facciano domande che io sappia rispondere. Speriamo, dai, un bel traguardo anche quello. Va bene, dai, un abbraccio, dai, ci aggiorniamo alle prossime, anche io vado a mangiare qualcosa. Ok Natali, saluta anche famiglia, ciao ciao. Ciao altrettanto Franco, alle prossime, grazie per le quattro chiacchiere. Ah figura, è sempre un piacere. Anche al telefono. Ciao ciao. Hola chicos. Attenzione dietro, c'è qualcuno? Sto morendo di freddo. Ciao tu, porca paletta. Per carità, c'è stato. Portami la bombola che mi accende.